Zolt. Fulminati in azienda. Centrifuga, noi delle risorse umane abbiamo fatto un'indagine di clima nelle sedi periferiche. Ancora con queste indagini, ma state sempre a indagare, mi pare da Gestapo. Guarda, ma io non ironizzerei perché la situazione è molto grave. Sì. Dopo aver analizzato 300 questionari campione ed aver realizzato 8 focus group con il nostro psicologo di fiducia, il dottor Piombi, te lo ricordi? Allora, abbiamo capito che ormai i commerciali delle sede periferiche hanno un commitment minimissimo. Ecco, e che c'era bisogno da analisi del clima per capire che nelle sedi di periferia e azienda ci sta maretta, ci credo. Quelli vorrebbero vendere il prodotto, ma il prodotto giusto è sempre esaurito o fuori stocche. Il cliente si infuria e sa piglia con i venditori delle periferie. Sì, ma se va avanti così, si dimetteranno tutti. Ci sono alcune sedi ultra demotivate, veramente alla deriva, voglio dire. E quali sarebbero sti naufraghi? Quelli di Trento e Trieste. Devi fare qualcosa, c'entri subito, immediatamente. È una tua responsabilità manageriale. E come faccio? C'ho già sul groppone tutti questi da sede centrale. Ma andiamo a Trento e Trieste, una persona di fiducia. Sì, ma chi? Mandamogli Bacco, stagista senior, che è pure da zona e conosce l'idioma. Beh, effettivamente. Pacco ha sempre richiesto di fare un'esperienza all'estero, quindi potrebbe essere la sua opportunità. Ma perché Trento e Trieste sono all'estero? No? Sono all'estero. Certo, sono all'estero. Allora, Pacco, si profila per lei una straordinaria opportunità. La nostra azienda deve riconquistare due sedi dove la motivazione dei venditori è bassissima, Trento e Trieste. Ah, ma se proprio la zona mia! E poi rimotivare i venditori nelle sedi periferiche è veramente interessante. Sì, siamo certi che con la sua energia, con le sue competenze, con l'esperienza raccolta nei 35 stage fatti presso la nostra azienda, saprà gestire la situazione al meglio. E gaverò, dottoressa, un contratto a tempo indeterminato finalmente per questa missione? Se tornerà vincitore dalla riconquista di Trento e di Trieste, allora potremo riflettere su questa opportunità. Perfetto, la vedrà che farò tutto il possibile. Su Trento e Trieste, l'Eterno Irredente sventolerà di nuovo alta la bandiera dell'azienda. Allora, come va la motivazione dei venditori nelle sedi periferiche? Abbiamo mandato lo stagista, Pacco, a fare degli incontri per spiegare ai venditori delle periferie che se devono rimotivare. Ma Centri, ma sei sicuro, scusami, uno stagista che va a rimotivare i venditori? Certo, è l'unico disponibile organico. È un cataclisma, è finita, è veramente una notizia terribile. Schedula, voi delle risorse umane siete sempre in agitazione. Sempre, dimmi. Tutti i venditori di Trento e Trieste hanno incrociato le braccia. Ma com'è possibile? Già quando si sono visti arrivare uno stagista a fare i colloqui di rimotivazione, si sono offesi. Poi dicono che sono stati umiliati perché Pacco, che conosce i prodotti praticamente a memoria, li ha interrogati, li ha sgridati perché ha scoperto che nessuno di loro aveva mai letto il catalogo dei prodotti. Ma come si permette? Ma come si permette uno stagista che solo perché conosce i nostri prodotti meglio di tutti i venditori storici della nostra azienda si mette lì a fare il sapientone? Ma è un pirla! Diciamo un po' ingenuo, insomma. Però è bravo, cioè per recuperare le vendite perse nel collo sciopero dei venditori del nord-est si è messo a vendere da solo e sta vendendo l'invendibile, cioè voglio dire, è bravissimo. Centrifuga. Mo chiamo io. Pronto. Ah Pacco, ma che stai a fa? Che stai a combinare? Tutto a posto, dottor. Come lavora, porta via i nuvoli anche i venditori che non conosceva ben il listino prezzi e sta di spazzati via dal vento del cambiamento. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t